Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 15 febbraio, bentornati e bentornate di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio e TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda tutti i giorni, un'ora al giorno, su Radio Città Fujiko e Lepida TV canale 118. Io sono qui con voi, sono Caterina Bombarda e qui con me c'è Antonella Cortese. Ciao Antonella, buongiorno. Ciao Caterina, buongiorno a tutte e a tutti. Partiamo sempre dalla nostra rassegna stampa. Ho una notizia interessante da Torino, titola La Repubblica, firma di Federica Cravero: in 2 metri quadrati si può vivere, niente risarcimento al detenuto. Ed è una storia questa che stringe davvero il cuore di un detenuto torinese che è stato per più di 10 anni in carcere, girando tra 4 istituti penitenziari per scontare condanne per una svariata serie di reati da lui commessi. E guardando i posti in cui si trovava, le celle dal nord al sud Italia, dietro le sbarre si è reso conto che dovunque andasse le celle erano al limite e in molti casi sotto la soglia dei diritti umani, addirittura 2,13 metri quadrati calpestabili a testa nel carcere di Novara e poi 2,76 al carcere di Aosta, 3,44 ad Alessandria, 3,52 a Sant'Angelo dei Lombardi, che è un carcere che si trova in Campania. Insomma, queste cifre per dirvi la ristrettezza anche delle celle. Sì, in effetti questa è una storia molto comune che abbiamo potuto anche conoscere grazie ad Antigone, che sorveglia insomma un po' tutto quello che succede in carcere, però è molto interessante perché noi abbiamo questo feedback di quello che veramente succede all'interno delle carceri, la ristrettezza, vivere veramente in ambienti strettissimi, angusti. Però io a questo punto ti chiedo, Caterina, che cosa ha fatto ricorso questa persona? Come si è mosso? Cosa ha potuto fare? Proprio così, quando ha iniziato a vedere la fine della sua pena, ha fatto richiesta al Tribunale di Sorveglianza del capoluogo piemontese di scarcerazione anticipata, come è anche previsto dall'ordinamento penitenziario, siccome a titolo di compensazione per chi ha subito una condizione detentiva inumana o degradante è prevista una scarcerazione anticipata oppure dei giorni dei permessi premio. Ma cosa sorprendente, ormai non più perché il titolo della notizia che vi sto raccontando è già abbastanza eloquente, il magistrato ha respinto la sua richiesta, motivando la decisione col fatto che nei periodi in cui la cella era più piccola, l'uomo era ristretto in un regime aperto e dunque, la presunta violazione dei diritti umani può dirsi ampiamente compensata, cito le parole del magistrato, dalla possibilità di uscire dalla cella per la maggior parte delle ore del giorno e di utilizzare la camera detentiva unicamente come luogo di pernottamento. Quindi questo rende possibile, leggo ancora la motivazione del magistrato, ritenere che la limitata fruizione di spazio personale abbia minore rilevanza e non leda la dignità umana data l'ampia possibilità di movimento. Quindi Caterina, diciamo un po' che quello che è inumano o quello che è, diciamo, accettabile, ovviamente non si basa su un criterio fisso, va valutato dal giudice di volta in volta a seconda dei casi. Beh, in realtà dei canoni generali ci sono per valutare i parametri standard delle celle. Stando alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'8 gennaio del 2013, si stabilisce che ciascun detenuto dovrebbe trascorrere almeno 8 ore al giorno fuori dalla cella e lo spazio disponibile per ciascun detenuto dovrebbe essere di 6 metri quadrati in caso di cella singola e di 4 se ci sono più persone. Invece lo spazio dovrebbe essere superiore ai limiti dei 3 metri quadrati, limite sotto il quale si determina il trattamento inumano e degradante. E poi ci sono alcune condizioni anche in merito al bagno delle celle, che deve essere fornito di acqua calda e fredda, e ci devono essere i bidet nelle sezioni femminili, ci deve essere la doccia, e anche la dimensione della finestra deve consentire il passaggio diretto della luce e di aria naturali. Ma tornando alla nostra storia, ecco, erano stati proprio gli avvocati di questo detenuto torinese a chiedere che l'uomo potesse chiedere l'anticipazione del fine pena. La norma infatti prevede che possa essere scontato un giorno ogni 10 passato in cella piccola, oppure nel caso del termine, che il termine per l'uscita arrivasse prima, si dovrebbe prevedere un risarcimento di 8 euro per ogni giornata passata in condizioni simili. quindi diciamo che questa persona detenuta era convinta di avere il diritto di risarcimento, o sbaglio? A questo punto perché poi non gliel'hanno concesso? Guarda, è assurdo, io mi imbarazzo a dirlo, perché la direzione poi facendo i calcoli, puntuale, centimetro per centimetro, ha potuto affermare che quando il detenuto stava comodo era in una cella di 10 metri quadrati, ovviamente in condivisione con un'altra persona, e alla fine rimanevano 3,52 metri quadrati a testa, quindi proprio al limite, limite, limite, e per questo motivo non è stata approvata la sua richiesta. E sì, Antonella, è triste questa storia, stringe il cuore, ma magari consoliamoci con una pausa musicale, sempre il nostro Vinicio Capossela, Una giornata senza pretese. A tra pochissimo. Sotto un cielo di nebbia che cielo non è, un altro giorno insicuro che io passo con te. Ci troviamo qua tra lampioni e vetrine, tra prezzi di scarpe, il cuore cucina. È stato forse per noia o per mancanza di vino, siamo usciti di casa e andati incontro al destino, destino normale, fatto di ponce, giornale, di risate spremute e di parole taciute. È una giornata senza pretese, non ci succede una volta al mese, stiamo qua abbracciati ad aspettare la sera. I miei occhi coi tuoi vanno incontro alla strada, sui motori e le luci brilla altera la luna, e non parliamo di niente in questa scura pianura, l'auto va dolcemente dentro la notte più scura. È una giornata senza pretese, non ci succede una volta al mese, stiamo qua abbracciati ad aspettare la sera. Siamo qua, messi qua, ad aspettare la sera. E rieccovi, bentornati dopo la pausa musicale, siete sempre su Liberi Dentro, Eduradio e TV, continuiamo la nostra rassegna di notizie e Antonella, l'argomento che noi tocchiamo sempre, perché ci preme, oltre ovviamente al carcere, è anche l'ambiente. Perché? Caterina, ci preme tantissimo parlarne ogni volta perché ci sono delle cose che stanno prendendo una piega che effettivamente non ci aiuterà nel prossimo futuro. Ho letto un articolo sull'inquinamento e la crisi globale scritto da Graham Lawton sul New Scientist in Regno Unito. E se ricordi, durante la pandemia all'inizio sembrava ci fossero degli effetti positivi sulla natura grazie appunto al lockdown. Gli animali che ritornavano nelle città, l'inquinamento dell'aria che sembrava diminuito, ci sembrava quasi un'inversione di tendenza un po' su tutto, no? Ma in realtà le cose non stanno così, perché una ricerca recente ha rivelato che ci sono proprio degli squilibri enormi Perché pensa che la montagna di rifiuti generata dal Covid nell'agosto del 2021 era pari all'8,4 milioni di tonnellate. E parlo di rifiuti plastici prevalentemente, che non sono stati smaltiti correttamente, ma sono stati scaricati in malo modo. Questi rifiuti sono stati gestiti male e sono la principale fonte di plastica nell'oceano. Prima della pandemia, ne riversavamo ovviamente, ma ne riversavamo collettivamente circa 32 milioni di tonnellate l'anno. Se ti fai due conti, solo in agosto 8,4 milioni, insomma, già siamo assolutamente fuori dai numeri. L'anno scorso le Nazioni Unite hanno dichiarato che i rifiuti e l'inquinamento sono una crisi planetaria al pari del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità e che vanno affrontate tutte e tre insieme. Tuttavia, questa crisi, fino a poco tempo fa era al terzo posto nella classifica globale, un fatto dovuto in parte alla mancanza di dati, ovviamente, perché quantificare quanti rifiuti ci sono nell'ambiente non è proprio facilissimo. Ma se rimanevano dei dubbi, sulla portata del problema, ormai i dubbi sono stati completamente dissipati. È emerso che i rifiuti e l'inquinamento hanno superato un punto di non ritorno chiamato limite planetario e sono oggi una minaccia per l'abitabilità del nostro pianeta. Stiamo soffocando sotto i nostri rifiuti. Certo, questo sorprende anche dopo tutta la retorica dell'andrà tutto bene, del fatto che in pandemia, in reclusione in casa, sostanzialmente non stessimo inquinando. E invece, questo limite planetario è stato fissato e ti chiedo come si è arrivati a questo. Il concetto di limite planetario risale al 2009, quando un gruppo di ricercatori guidati da John Rockström, direttore della Stockholm Environment Institute, ha cercato di definire quello che poi ha definito, ha ribattezzato spazio operativo sicuro per l'umanità. Hanno scelto 9 parametri globali che sono rimasti notevolmente stabili negli ultimi 10.000 anni, tra cui clima, biodiversità, degrado della terra e inquinamento. Questi elementi creano collettivamente un sistema che rende possibile la nostra vita sulla Terra, ma ovviamente si sono indeboliti quando l'uomo ha cominciato la rivoluzione industriale, insomma, ma addirittura quando è comparso sul pianeta. Per ogni parametro poi hanno tentato di fissare un limite che noi ovviamente continuiamo a violare a nostro rischio e pericolo. Ma a occhio, da come lo racconti, mi sembra che stiamo sforando un po' questo limite, vero? Sì, ma anche i parametri si sono notevolmente ampliati perché nel 2015 l'EQIP aveva dichiarato che 4 dei 9 limiti planetari, che sono l'integrità della biosfera, il cambiamento climatico, l'uso del suolo e i cicli di azoto e fosforo, erano stati superati e 2 di essi erano ancora non definiti e includevano nuove materie, per lo più quindi sostanze chimiche rilasciate nell'ambiente dall'attività umana, in altre parole, rifiuti e inquinamento. L'EQIP stima che abbiamo violato il limite di circa il 200%, un impatto pari a quanto fatto all'integrità della biosfera e anche peggiore di quello sul cambiamento climatico. Quindi, insomma, abbiamo veramente sforato di brutto. C'è da dire che dal 28 febbraio in poi ci sarà la quinta assemblea sull'ambiente delle Nazioni Unite, l'organo decisionale di maggior livello al mondo per le questioni ambientali, e che si riunirà a Nairobi in Kenya. E sul tavolo c'è una risoluzione per istituire un organismo scientifico globale che si occupi di sostanze chimiche, rifiuti e inquinamento sul modello di quelli per il clima e la biodiversità. È necessario e doveroso anche perché ci stiamo bruciando la possibilità di sopravvivere su questo meraviglioso pianeta. Parlavamo prima di Africa e ascoltiamo Caterina, la nostra amata Fatumata Diawara. L'abbiamo lanciata anche in passato con la canzone Mama e poi non andate via perché ci sarà un'intervista di Caterina a Giuseppe Matulli, presidente dell'Associazione per i diritti dei detenuti Pantagruel presso il carcere di Sollicciano. A dopo. My own mama, niente. Ne dumbara mogo minala jene bakonate bagari jawara on wode ni afoli awe ya falato afoli bawe bi bagon afoli bawe za jigitan afoli bawe bi Dodon a fully bowyesa. While I bagayo, all a denning a fully tati cabagari, kiniche. Rieccovi, bentornati su Liberi Dentro Eduradio e TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città. La nostra trasmissione continua con l'ospite della settimana che è Giuseppe Matulli, detto Beppe per gli amici che saluto. Ciao, grazie di essere qui. Ciao. Presidente dell'Istituto Storico della Resistenza di Firenze e presidente dell'Associazione per i diritti dei detenuti Pantagruel, che opera al carcere di Sollicciano. Beppe, io ti voglio, già sei un amico per noi di Eduradio, voglio chiederti innanzitutto quando inizia il tuo impegno di volontariato in carcere e per quale motivo? Dunque, intanto inizia nel 2014. Pantagruel era un'associazione molto, molto già, aveva già accumulato degli anni, era già presente da molto tempo, sia al carcere di Sollicciano sia al carcere vicino al carcere di Sollicciano a Firenze c'è anche il carcere dedicato a Mario Gozzini che è un carcere a sorveglianza attenuata, insomma un carcere diciamo così molto molto aspirato dai detenuti di Sollicciano perché è un carcere senza la chiusura 23 ore su 24 come è a Sollicciano eccetera. E io ebbi occasione di incontrare questa realtà e devo dire, se devo essere sincero, avendo fatto il parlamentare prima, mi ero occupato nei 7 anni di Parlamento di moltissime cose, meno che del carcere. Quindi mi sentii in qualche modo, meno che di giustizia in generale, ma del carcere in particolare, quindi mi sentii in qualche modo in colpa per questa dimenticanza. E quindi anche solo per quello mi sentì in dovere di partecipare, di avvicinarmi a Pantagruel e quindi poi di partecipare come volontario in carcere. E quindi io ho fatto dal 14 a oggi e quindi sono un parecchi anni ormai che vado una volta alla settimana, come minimo, qualche volta anche due, a Sollicciano. Ho una curiosità a questo punto. Il primo impatto qual è stato? L'impatto con Sollicciano è drammatico sempre. prima di tutto perché è un labirinto che finché uno non ci è andato almeno una decina di volte non riesce a capire come ci si orienta. Poi il carcere era già, anche nel 14, era già molto degradato, nonostante che io avessi sentito dire, insomma ero a Firenze, quando il nuovo carcere fu inaugurato, quindi sembrava che fosse un salto verso la modernità, un carcere abbastanza assurdo. L'incontro fu poi con i detenuti, fu particolarmente duro, perché naturalmente io ero accompagnato da una volontaria che aveva forse l'esperienza che ho io oggi, e andammo a incontrare un detenuto italiano, un ex tossicodipendente, che fra l'altro c'era stato anche così sollecitato, diciamo, o non dico raccomandato, ma una educatrice aveva detto sì, è una persona interessante perché è uno che è voluto venire in carcere, ha preferito il carcere alla comunità. Era un tossicodipendente. Andammo da questo ragazzo tossicodipendente, il quale disse che era stato in una sentenza, era stato condannato agli arresti domiciliari. Lui disse al giudice: no, mi mandi in carcere, perché non si fidava di se stesso. E il giudice gli disse: e sono io che do le pene, non lei, staremo a vedere. Lo denunciarono agli arresti domiciliari, lui si fece trovare subito fuori, non entrò più in casa finché non l'hanno portato in carcere. In carcere aveva fatto il passaggio alla sezione 7, quella dei tossicodipendenti, alla sezione 7. Poi quando uno aveva superato, aveva finito la cura col metadone, eccetera, eccetera, passava all'ottava. E quando noi l'abbiamo incontrato, lui sembrava molto soddisfatto perché aveva praticamente terminato la cura del metadone e sarebbe passato alla sezione ottava. E così parlò molto apertamente, anzi mi fece un'impressione ottima da questo punto di vista, perché parlò dei suoi problemi, parlò del babbo che era morto, del complesso di colpa che lui aveva nei confronti del babbo, che addirittura l'aveva portato anche a un tentativo di suicidio. Naturalmente fu facile così parlando con lui, che naturalmente l'onore del babbo sarebbe stato molto più rispettato se lui fosse uscito come pensava di uscire, eccetera. Ci demmo l'appuntamento per la settimana successiva e 3 giorni dopo seppi che si era suicidato. Ecco, questo fu il primo impatto. L'impatto duro, certo. Molto duro, no? Dopodiché ho continuato a incontrare dei detenuti, poi niente, poi c'è tutto il mondo che c'è nel carcere, con tutta la varietà delle situazioni, chi è capace di vivere in carcere, e sono molto fortunati quelli che cercano la positività in tutte le esperienze. Qualche volta anche nel colloquio con i volontari, magari in colloqui allegri, scherzosi, qualcuno che ci fa anche ridere. Noi in genere andiamo in coppia, come... Sì, sì, anche noi dell'Avvoc andiamo in coppia molto spesso. In coppia, sì. Sicché c'è una persona di colore che è di una simpatia, ride sempre, e dopo poi cerca anche di proseguire, di allungare il tempo della conversazione. Poi alla fine, dopo aver scherzato con autoironia, eccetera, ma veramente simpatico, e poi alla fine dice: va bene, ora vi saluto, torno a fare il detenuto. Quindi vivendo questo momento come un momento di evasione. Poi naturalmente, invece, se magari fossero tutti così, invece ci sono quelli che vivono con grandissima sofferenza, senza riuscire a crearsi delle prospettive future, e sono quelli che determinano un maggiore sofferenza, quelli che non riescono a costruirsi interiormente prima di tutto un futuro. E anche oggi l'intervista con l'ospite finisce qui. Io ti ringrazio, Beppe, come ringrazio tutti i nostri teleradioascoltatori che ci hanno seguito fino a questo momento. Ovviamente scriveteci, vi annunceremo appunto il contatto a cui scriverci nei saluti di fine puntata. Ascoltiamoci una canzone con Francesco Tricarico, Una vita tranquilla. A tra poco. Ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato, nulla. Che cosa è che io aspetto? Io è una vita tranquilla, perché da quando sono nato sono spericolato. Io voglio una vita serena, perché da quando sono nato che è disperata, spericolata, però libera. No, non dovrei. Sempre pensato, quando avrò il cielo sarò stellato. Divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso. Ho sempre pensato, troverò lei, sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sé. Io voglio una vita tranquilla, perché da quando sono nato che sono spericolato. Sono nato che è disperata, spericolata, però libera. E eccoci, bentornati, vi annunciamo la rubrica nella mezz'ora a seguire. Abbiamo l'intervista a Alfonso Paggiarino, che è il direttore dell'Istituto Minorile del Pratello di Bologna, quindi rimaniamo nella nostra città, ascoltiamo le notizie da un'altra realtà di detenzione e ovviamente scriveteci redazione Liberi Dentro @gmail.com. E come sempre, da me che sono Caterina, Antonella Cortese, Enea Flacco, Diana Bota e il nostro Paolo Aleotti, un saluto enorme e ci rivediamo domani. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.